Non aveva né una valigetta né un raccoglitore in mano. Niente. Quando è arrivato nel cortile ha guardato in alto, come a controllare che tutto fosse a posto. E mi ha visto ancora immobile sul ballatoio. Non ha detto nulla ed è uscito. Signore e signori, ecco a voi il mio vicino psicologo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16:05, quasi 6 minuti. Oggi è il 26 di aprile del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Se penso a un vicino di casa, al peggior vicino di casa che mi viene in mente, penso ad Anacleto Mitraglia, il vicino di casa di Paperino. Anacleto è alto, magro, con i baffi e i capelli neri. Ha sempre una bombetta in testa. È un attaccabrighe, è presuntuoso e antipatico. È un vicino di casa, insomma. La storia dei litigi tra Anacleto e Paperino risale a quando Anacleto si trasferì a Paperopoli. Sia lui che Paperino divennero subito grandi amici e passavano molto tempo insieme. Un giorno decisero entrambi di partecipare a una gara di sculture di neve. Purtroppo però la notte prima della premiazione entrambi crollarono e quindi persero la gara. Paperino e Anacleto si diedero la colpa, ovviamente a vicenda, visto che entrambi sostenevano che la propria scultura era crollata per colpa dell'altra. Ecco, da qui la loro amicizia si ruppe e cominciarono gli interminabili litigi che continuano ancora oggi. Tutti quanti, tutti noi prima o poi abbiamo sperimentato un Anacleto Mitraglia nella nostra vita. Un vicino di casa molesto, oppure particolarmente noioso. Uno di quelli che trascinano i mobili sul pavimento durante la notte, che uno si domanda che cosa avrà da traslocare tutti i giorni, tutte le notti. Oppure di quelli che se solo cammini sul pavimento alle 10 di sera ti bussano con il manico della scopa sul soffitto. Poi ci sono i vicini inquietanti, quelli che mandano lettere minatorie, che chiamano i carabinieri, che lasciano messaggi insultanti su zerbini nelle cassette delle lettere. Gente che organizza messe nere in cantina, che prepara polpette avvelenate per i cani di tutto il palazzo. Il campionario dei vicini di casa e dei loro misfatti è lunghissimo. Una volta mi è capitato di essere io il peggior vicino del mio vicino. Era quando vivevo con tre compagni di accademia abbastanza molesti. Si stava sempre alzati, fino a tardi. Una notte il signore che abitava al piano di sopra scese con i due figli, come fossero due guardie del corpo, dicendo che dovevamo finirla, che lui lavorava e voleva dormire. Per sua sfortuna però gli aprì la porta Fabio Gandossi, che gli disse che noi eravamo studenti, che eravamo giovani e avevamo tutto il diritto di divertirci. Ricordo che glielo staccammo a forza di dosso. Ecco, oggi si fa una rassegna di vicini, anzi, si fa una rassegna del vicino, il peggior vicino della vostra vita. Se volete raccontarmelo, io sono qui. Il numero è sempre quello, è 800240024 per chiamare in diretta gratuitamente, oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Si parla di vicini di casa, prima di farlo però si parla ancora per un attimo del Salone del Libro, visto che effettivamente c'è stato un piccolo cambiamento. La prima volta che ne ho parlato ho detto che ci vediamo venerdì 13 maggio al Salone del Libro, non è così. Ci vediamo giovedì 12 maggio, è un giorno prima. Forse è un po' più complicato perché non è diciamo la porta verso il fine settimana, non è il venerdì pomeriggio. Se però avete voglia di prendervi una mezza settimana di ferie o un permesso di 2 ore dal lavoro, o invece non fate niente, quindi siete comodi, tutta la redazione di Io Sono Qui è lì in diretta al Salone del Libro, al padiglione 2. Dico delle cose, attenzione, forse a caso, ma secondo me sono azzeccate. Ricordo bene il padiglione 2, Luca adesso controllerà per me. Al padiglione 2, allo stand di Radio 24, alle 16 di giovedì 12 di maggio. Sarà una bellissima giornata. Speriamo, nel senso meteorologicamente speriamo che sia così. Niente, sostanzialmente sarà un programma in diretta, sarà questo programma in diretta in cui io vi racconterò come faccio tutti i giorni un pezzo della mia storia live. Credo che ci siano dei posti a sedere. Tutti quanti mi chiedono se ci sono ancora i puff nello stand. Io non lo so se quest'anno ci sono i puff, però Roberto mi dice di no. Comunque sia, c'è posto per sedersi. La cosa che però vi chiedo quest'anno, e ho già cominciato a farlo e vi ringrazio perché già stanno cominciando ad arrivare, è di mandarmi dei piccoli racconti. Vi chiedo per piacere dei brevi racconti. Io dico una pagina, poi anche se è una pagina e mezzo va bene lo stesso, però se me li mandate di 5 pagine è un pochettino più complicato ridurli ad una pagina. Vi chiedo semplicemente di scrivere un racconto che sia un episodio veramente accaduto nella vostra vita, che è l'episodio che più racconta di voi, che meglio racconta di voi, per questo che abbiamo deciso di chiamarlo il racconto che vi racconta. Una pagina di racconto, non la prima cosa che vi viene in mente, pensateci un po', e prima o poi vi attorno alla testa qualcosa che, non dico per tutta la vita, ma per adesso, per questo periodo della vostra vita, per questo momento, questa fase che state attraversando, vi racconta meglio, dice qualcosa di voi. Il racconto che vi racconta, una pagina, se volete spedirmelo, lo spedite a io sono qui, @radio24.it, come hanno fatto Emanuele, Chiara e altri. Vi dico giusto i titoli di alcuni racconti che sono già arrivati. Birmingham 1999, il giovane uomo, la quadratura del cerchio, S-lunga, io sono qui, @radio24.it, oppure giovedì 12 maggio me l'ho data a mano. Cominciamo a leggerle, questa cosa poi diventerà una cosa probabilmente molto più grande di quello che al momento è ancora. 800240024 invece, 349-238-6666 per parlare del peggior vicino della vostra vita. Questa è una sorta di gara che ogni tanto facciamo. Al momento direi che in classifica ci sono Vanna. Anni fa avevo al piano di sopra un vicino che attendeva la notte per esibirsi. Spostamento di mobili, musica a tutto volume, urla. Un'estate, tornando dalle vacanze, ho scoperto che aveva gettato di sotto, sul mio terrazzo, di tutto. Lattine di birra, rotole di carta igienica e altro. Dopo qualche civile protesta, l'ho denunciato ai carabinieri. La notte dopo lui ha tentato di abbattere a pugni la porta di casa mia. Ho dormito per la paura presso dei vicini per un paio di notti. Dopo un po' mi ha lasciato in una buchetta, credo in una cassetta delle lettere, un messaggio di scuse, ma alla fine ho vinto io, ha traslocato. Mi risulta che abbia fatto traslocare altre tre persone. Marco, fortunatamente abito in campagna, ma anche qui ho un vicino molto strano. La mattina, appena sveglio, è sua abitudine espletare il bisogno corporeo lasciando la finestra aperta. Capisco che siamo in campagna, ma quando mi sente col trattore potrebbe chiudere. Marco lo conosciamo, ci ascolta dal trattore. Karin, ne ho avuti due. Uno ha avvelenato il mio gattino e poi un giorno ubriaco è anche venuto a dircelo. Però un altro invece, dato che avevamo messo la macchina dove secondo lui non andava messa, l'ha riempita della cacca del suo cane. Il peggior vicino che abbiate mai avuto. 800240024. Come al solito se ne parla, perché io mi sono accorto che da poco è arrivato un nuovo vicino sul ballatoio di fianco a casa mia. Adesso vi racconterò anche esattamente chi è, se non l'avete ancora capito. Il mio, grazie a Dio, ex vicino in 20 anni mi ha intossicato la casa con una canna fumaria non in regola. Mi ha tagliato le piante del giardino per dispetto. Ci rallegrava con insulti infamanti a qualsiasi ora della giornata. E ogni volta che faceva il barbecue usava il carbone tossico che rendeva l'aria simile a quella di una fonderia di Birmingham durante la rivoluzione industriale. Questo non capisco però se lo faceva apposta oppure no. Claudia, il mio vicino ascolta Mango a tutto volume nel cuore della notte. E questo effettivamente non è per niente male, secondo me quello veramente ribatte tutti, anche quello che buttava giù la roba dal balcone. Ascoltare Mango a tutto volume per tutta la notte effettivamente sarebbe provante per qualsiasi vicino. 800240024, 349-238-6666 ed ora il mio nuovo vicino. Ci sono dei momenti nella vita in cui un martello pneumatico ti sveglia la mattina presto. Non capita spesso, ma quando capita te lo ricordi come se ce l'avessi sempre avuto nelle orecchie, con il rumore del trapano che aumenta di intensità quando penetra nel muro e poi i colpi di martello che abbattono pezzi di parete, il tutto lanciato in una serie di tubi di plastica che dal secondo piano portano direttamente nel cassone del camion che sta nel cortile, facendoli defalagrare sulla lamiera come un'esplosione. Ecco, quel momento della mia vita è finito ieri mattina, quando ho aperto gli occhi e mi sono accorto che c'era qualcosa di strano, qualcosa di diverso. C'era silenzio. Sono uscito sul ballatoio e ho guardato nell'appartamento di fianco al mio, quello da cui arrivavano i rumori infernali. La porta era aperta e non ho resistito alla tentazione di guardarci dentro. Era un bilocale di quelli che a Milano vendono come fosse una amichetta. Era vuoto. C'era un imbianchino che stava finendo di pitturare le pareti. In un angolo un paio di sedie, una scrivania, una poltroncina e una lampada da terra. Era un po' spoglia per essere una casa, ma magari l'avrebbero affittata a qualche studente che alla fine gli basta un materasso per dormire e una scrivania per studiare e il resto lo fa l'età e la voglia di cambiare il mondo. Così si dice. Sono rientrato in casa e mentre mi facevo una doccia ho iniziato a pensare a che cosa avrebbe portato tutto questo. Feste in orari assurdi, rumori molesti a qualsiasi ora del giorno e della notte, gente che avrebbe bazzicato sul ballatoio passando davanti alle finestre di casa mia, mandando in frantumi la mia privacy. E poi bottiglie di birra sui davanzali, odore di marijuana che entra dalle finestre e tanto, tanto entusiasmo. Troppo entusiasmo. L'entusiasmo tipico degli studenti, quello che non guarda in faccia nessuno, quell'entusiasmo che mi inquieta. e ho sempre avuto difficoltà a relazionarmi con le persone troppo entusiaste, quelle che sorridono sempre, che tengono il tono della voce alto, quelle che tutto ha sempre uno sviluppo positivo, che dai, ma guardiamo il lato positivo delle cose, che bisogna sempre trarre un insegnamento buono da qualsiasi cosa. Non lo so, forse è solo invidia la mia, però anche quando facevo l'università ho sempre un po' accusato il clima generale che si respirava nelle aule e fuori dalle aule. Allora sono uscito dalla doccia convinto che la mia vita con un universitario come vicino, intendo dire, sarebbe diventata un inferno. Sono uscito di casa, sono andato a fare colazione e intorno a me mi sembrava di vedere solo volti entusiasti, solo persone ottimiste che vedevano nella bella giornata un presagio del futuro. Uno al bancone aveva appena ricevuto una risposta positiva da un concorso a cui aveva partecipato. L'altro era innamorato e ricambiato. Una signora raccontava che la figlia aveva appena avuto un figlio e il nipote era splendido. Perfino il marito, davanti alla brioche, sorrideva come se fosse un bambino con la merenda. Perfino il cane che c'era legato fuori dal bar sembrava guardare il mondo con gli occhi sorridenti. E per un attimo ho pensato che forse per tutto questo malessere verso chi sembrava allegro avevo bisogno di un rimedio. Tipo un buon medico. Fammi entrare per favore nel tuo giro giusto. Ho bisogno di socializzare, di uscire dal mio guscio. Poi, ieri sera dopo la diretta, sono tornato a casa. Sono salito a piedi perché l'ascensore era occupato e quando sono arrivato davanti a casa la porta dell'appartamento di fianco era chiusa. Sul muro sopra il campanello però c'era una targhetta in metallo con una scritta in caratteri molto eleganti che diceva «Dottor Pietro Salvati, psicoterapeuta». Ho letto e sono entrato in casa. Una sorta di euforia inspiegata mi ha colto. Come se il fatto di avere uno psicologo al posto di uno studente universitario come vicino di casa potesse rendermi la vita più facile. Ho buttato le chiavi sul tavolo e ho fatto la cosa che faccio sempre in questi casi. Mi sono catapultato su Google alla ricerca di notizie sul mio nuovo vicino. E come sempre, le notizie, se tu le cerchi, le trovi. Dottor Pietro Salvati, dopo la laurea in medicina all'Università di Trieste, ha collaborato attivamente con il Social Research Center della Columbia University di New York. Da più di 30 anni svolge la propria attività come psicologo clinico e psicoterapeuta in ambito pubblico. Nel 1977 ha introdotto la terapia sistemico-relazionale all'ospedale di Bologna. È responsabile del servizio di consultazione psicologica e psicoterapica. Ha completato la propria formazione professionale in psicoterapia secondo gli orientamenti sia di tipo psicodinamico sia sistemico-relazionale. Iscritto all'albo professionale eccetera eccetera, è docente di psicologia dei comportamenti presso l'Università di Pavia. Wow! Non avevo uno psicologo qualunque come vicino. Avevo il principe della psicoterapia. Per un attimo mi sono messo a riflettere su come doveva essere fare un mestiere come quello. Un mestiere in cui tutti i giorni le persone ti riversano addosso la loro sofferenza. Ho pensato che forse tutti prima o poi si sarebbero dovuti fare un bel giro da una persona come il dottor Salvati. Perché più o meno a tutti sono capitate delle cose spiacevoli nella vita. Cose spiacevoli che non sto qui ad elencare, proprio perché sono spiacevoli e parlare di cose belle è meglio, soprattutto alle 4 del pomeriggio. Però a tutti sono successe cose che hanno messo in discussione le proprie certezze. Da un momento all'altro ti trovi catapultato nel nero più nero. Possono essere capitate a te o a una persona vicina a te. E in quei momenti ti chiedi se la disgrazia sia dovuta a qualcosa di brutto che hai fatto. E quindi è giusto che ci sia una punizione. Oppure no, se perché tutto ti stava andando bene, troppo bene. E allora siccome la ruota gira, è giusto che tu paghi per tutto il bene che hai avuto. Oppure ancora no, semplicemente che la vita è così. Ci sono dei momenti in cui tutto va e altri in cui tutto non va. Fino a che punto dipende da noi, questo sinceramente io ancora non l'ho capito. Ed è per questo motivo che esistono persone come il mio nuovo vicino di casa. Mi sentivo anch'io investito dall'aura di grandezza che improvvisamente aveva iniziato ad aleggiare attorno allo studio di psicoterapia al di là della mia parete. E mentre finalmente mi riprendevo da tutto questo entusiasmo senza senso, ho sentito la porta che si apriva e poi si richiudeva. Con una scusa sono uscito sul ballatoio, mi sono trovato faccia a faccia con il dottor Salvati. Lui stava chiudendo la porta a chiave, mi è passato davanti salutandomi con cortesia e distacco. L'ho osservato mentre si allontanava. Era un omone, alto, con le spalle larghe. Aveva tra i 50 e i 60 anni, gli occhiali piccoli e il naso grosso. Vestiva con una giacca di lino, dei pantaloni blu e delle scarpe da vela. Non aveva né una valigetta né un raccoglitore in mano, niente. Quando è arrivato nel cortile, ha guardato in alto come a controllare che tutto fosse a posto. Mi ha visto ancora immobile sul ballatoio. Non ha detto nulla ed è uscito. Signore e signori, vi presento il mio vicino psicologo. Il nostro vicino ha recintato una parte comune e alla nostra civilissima richiesta di togliere la recinzione ha minacciato di spararci con il fucile. Poi è bastata la lettera dell'avvocato. Collezionisti di cartoni ondulati ne tenevano in casa quantità inverosimili, solo che i cartoni ondulati sono l'habitat preferito delle blatte. E poi ancora, contano anche vicini che si amano tutta la notte. Vabbè, quello. Poi tutta la notte. A me questi vicini che si amano tutta la notte. Ma cosa sarà? Quarto d'ora? Mezzo? Metti pure un'ora. Ma c'è differenza. È come mia mamma quando mi dice: guarda, per la preoccupazione non ho dormito tutta notte. È chiaramente una sineddoche. Tiziano, non è una sineddoche, è una parte per il tutto, è una metonimia. È una tutto per una parte. Luca, cercami qual è la parte per il tutto, ti prego, altrimenti qua subito brutte figure. Rimane comunque in testa sempre lei, Claudia, il mio vicino ascolta Mango a tutto volume nel cuore della notte. Mediterraneo da pregare. Pensa che tu sei lì, alle 11:30. Te ne vai a dormire, sei sereno, hai visto magari un bel telefilm, oppure ti stai leggendo un libro e improvvisamente parte sta roba. Tra gli ulivi l'acqua è scura quasi blu. Grazie Roberto, grazie anche a Mango. Grazie vuol dire basta. I tre alpini al piano di sopra avevano l'appello alle 6:30 e uscivano con gli scarponi chiodati. Scusa, gli alpini non stanno in caserma? Ah, o magari avevano la. O magari vive in Iraq. Poi mi è arrivato questo messaggio oggi sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Aldo, dice così il messaggio. Aldo, quando gli ho chiesto la firma per la deroga ai 5 metri dal suo confine, mi ha risposto: vedi, se tu ti allarghi la tua casa aumenta di valore. E io che cosa ci guadagno? Se vuoi la firma mi devi cedere il pezzo di giardino adiacente al mio. Pronto Claudia? Ehi, ciao. Ciao, come stai? Benone, grazie. Senti, tu gli avevi chiesto la deroga per che cosa? Non ho capito. Noi abbiamo una casa con un terrazzo molto grande, siccome sì, non lo usiamo moltissimo, abbiamo pensato di coprirlo e quindi ricavarne dello spazio aggiuntivo. Cioè, fare una stanza in più, più o meno. Esattamente. Okay. E così è stato, solo che per fare questo bisogna chiedere il permesso ai vicini. E diciamo che finché è stato il vicino di fronte non c'è stato nessun problema. Mm. Poi invece per quanto riguarda quello a fianco, così è stato, così mi ha detto. Ero andata io perché mio amoroso aveva già avuto, diciamo, dei diverbi precedenti, sì, vista il personaggio, e quindi io mi sono armata di questo sorriso 36 denti di grande gentilezza, ma mi sono scontrata poi con gli interessi effettivi poi della persona. Cioè lui praticamente ha detto: va bene, visto che aumenta di valore tu mi devi dare qualcosa. E ti chiedeva un pezzo di giardino. Sì, perché a fianco lui è un nostro confinante e abbiamo un pezzetto di giardino che tra l'altro ha pure diciamo il posto auto annesso, per cui diciamo, e qui entriamo nei meandri chiaramente monetario. Catastali, immagino. Senti, ma tu dove abiti, in un paese? Treviso. Ah, a Treviso. Però continuano a spiegarmi questa cosa che devi chiedere il permesso ai vicini, non devi chiedere al comune il permesso per... No, certamente, però per presentare il progetto al comune, se lo spazio di distanza è inferiore ai 5 metri, quindi qualsiasi cosa io faccio inferiore a questi 5 metri, devo comunque avere la firma del vicino che mi approva sul progetto. Cioè, la distanza di sicurezza tra vicini è 5 metri? Sì? Diciamo di sì. Davvero, è una sorta di terra di nessuno in cui, come dire, ci teniamo lontani, tu mi prometti che non entri e io ti prometto che non entro. Esattamente. Senti, Aldo è sempre tuo vicino? Sì, tuttora. E come sta? sta benissimo, questo weekend ha bocciato anche a un saluto, perché dopo questa vicenda non ci siamo quasi più guardati in faccia né salutati, invece ho visto che il clima sta in qualche modo migliorando, il tempo, no? Certo, la primavera. Claudia, però io salutandoti direi ringrazia quantomeno che Aldo non ti manda nel cuore della notte sta roba qua. Mediterraneo da pregare. Ciao Claudia, buona giornata, ciao, grazie. Io sono qui. Nella fotografia di oggi invece siamo su una parete, siamo contro una parete di una casa, direi. È una parete molto addobbata. Diciamo che il proprietario di questa casa o di questa parete non è proprio minimalista. Ci sono quadri appesi e poi c'è un chiodo a cui sono appesi, credo, decine di pass, di cartellini, sì, di pass, quelli per andare alle fiere, ai concerti. I quadri sono tutti, hanno tutti delle scritte. Credo che sia qualcuna che si occupa di calligrafia, anche perché i pass hanno tutti lo stesso nome, scritto in lettere molto ricercate. Barbara è il cognome che non riesco a leggere. E sotto questi cartellini multipli appesi, delle mensole con degli omini, credo. Degli omini di legno, immagino, o forse delle matriosche. Barbara Calzolari, 48 anni, recupero di un'anta ricoperta di carta anni 70 e scritta calligrafica del 1800. Ritratto in carta di riso e collane, io sono qui. Sembra che abbia descritto un'altra fotografia rispetto alla sua. Probabilmente io ho visto delle cose che a lei non interessavano, o forse viceversa. E la foto è sempre alla pagina di Io sono qui Radio 24, www.radio24.it, la pagina di Io sono qui. Per mandare invece la vostra foto che racconta dove siete, sempre Io sono qui @radio24.it, oppure la caricate sul profilo Facebook, se avete un profilo Facebook, Matteo Caccia, Io sono qui. Hector, un mio vicino entrava in giardino e ci rubava il rosmarino, i funghi e le ciliegie. L'altro vicino invece ci ha deviato il fosso e ci faceva entrare l'acqua in casa. Ma qui c'è della cattiveria proprio, non è solo... Alberto, una domenica mattina sono stato svegliato da 6 volanti della polizia che cercavano il mio vicino. E poi vissia. Io ne avevo una inquietante a casa dei miei. Era dottoressa in medicina legale. Aveva messo all'ingresso delle cantine un lettino portato via dall'obitorio. Ma non finisce qua. Aveva un bimbo di 3 anni e io avevo un cane. Lei abitava sopra di me. Il bambino si affacciava spesso per vedere il cane. E un giorno lei l'apostrofò dicendo: attento che cadi, sbatti la testa, muori e poi ti faccio l'autopsia. Questa più che una vicina terribile, direi che era una madre terribile. 800240024. Andiamo ad Alessandria, da Marco. Ciao Marco. Ciao, come stai? Tutto ok. Sei in macchina? Torno dal lavoro. Che lavoro fai, Marco? Faccio l'autista. L'autista di cosa? Camion? Camion. Di camion, bilici? No, una motrice, via. Una motrice vuol dire piccolo? Sì, piccoli. Marco, mi sa che devi abbassare la radio se non l'hai abbassata, sai? Scusami. Ti ringrazio. Okay. Senti, tu hai un vicino che definisci completamente folle, per quale motivo? È un po' figlio dei fiori, diciamo. Ma non esistono più i figli dei fiori? Lui lo è. Lui, e che cosa fa, scusami? Diciamo che ha avuto un po' di problemi quando ha perso i genitori e ha avuto dei problemi di testa, diciamo. E da allora comincia a fare cose tipo uscire nudo in cortile, raccogliere margherite, fare saluto al sole, un po' come la Brigliadori all'Isola dei Famosi. Guarda, purtroppo non ho ben presente, però insomma mi immagino. Lui cosa fa? Fa qualcosa nella vita oppure balla tutto il tempo nudo in cortile? No, ha perso il lavoro tempo fa e penso sia a casa con una pensione di invalidità. Vabbè, è una storia che mi sta rattristando in una maniera incredibile, Marco. Quanti anni ha questo ragazzo? Penso sia sulla cinquantina. Ah, ok. Quindi diciamo è da servizi passa sociali da, più o meno. Lui passa da musica tipo Marilyn Manson ad altra musica tipo ballate tedesche, classiche. Però Marco, niente di questo calibro. Diciamo che non mi stupirei neanche di quello, neanche manco. Marco, grazie mille, buona giornata. Prego, ciao. Ciao, grazie Roberto, ciao. Grazie. Facciamo che la metti, Roby, la metti 3 secondi, poi ti ringrazio. 800240024. Ernesto della provincia di Napoli. Ciao Ernesto. Ciao Matteo. Ciao. Come stai? Bene? Sì, abbastanza, piove però. Piove, bene, abbiamo dato una notizia. Una tristezza unica. Una tristezza orribile. Senti, il tuo vicino ti ha aggredito con una mazza da baseball. Sì, diciamo che è stato il culmine dell'escalation che ci ha portati a poi ai tribunali, denunce, avvocati. Ma qual era il motivo? Dunque, io sono il suo vicino, ma sono anche l'amministratore del condominio. Aia, cioè tu vivi, nello stesso condominio che amministri? Sì, vivo nello stesso condominio che amministri. Ma non c'è conflitto di interessi, no? No, perché non voto in assemblea, quindi il problema non c'è. Cioè tu esci da... Ti ricordi qualcuno? No, quando si parla delle mie cose io esco dall'assemblea. No, io esco, non è che esco dall'assemblea, ma non voto, mi astengo. E quindi le delibere possono essere assunte. Ok, quindi non ti mette in difficoltà questa cosa? Assolutamente. Cioè tu hai colleghi che sono nella tua stessa condizione? Non lo so, sì, molto spesso insomma troviamo il pazzo di turno. Più che altro immagino che sia appunto che questo aumenti le beghe però che ha a che fare con i tuoi vicini di casa, no? Assolutamente sì, anche perché poi sai, se un amministratore che non abita nel condominio lì può decidere un orario di ricevimento, casa mia insomma è un porto di mare dove a qualsiasi ora del giorno e della notte ti vengono a bussare per le cose più felici. E in questo caso invece cos'era successo, Ernesto? Ma in questo caso c'era un condomino che si trasferiva e aveva chiesto il permesso all'assemblea di mettere dei catenacci davanti al cancello del box garage. Sì. E lo aveva fatto tranquillamente, la delibera c'era stata. Il tizio in questione invece è arrivato lì e ha deciso che quei catenacci lì non potevano esserci. È venuto ad abitare dopo che c'è stata questa delibera. E da lì poi l'escalation a fargli capire insomma le cose come stavano, finché si è scocciato un giorno, ha preso questa mazza da baseball e è venuto a bussare al mio appartamento. Ma con la mazza in mano? Ha bussato alla porta con la mazza in mano. E quando l'hai visto? Cioè come si reagisce di fronte a uno con una mazza da baseball in mano? Dipende, se sei uno che è cintura nera di judo, apre la porta, gli piglia la mazza e gliela dà in testa. Altrimenti, visto che siamo in pochi, sono in pochi ad essere cintura nera. Altrimenti nulla, stai lì, aspetti che vada via, chiami la polizia, i carabinieri, chi per essi. Che sta arrivando tra l'altro già. Un'ambulanza. Ernesto, ti ringrazio molto, buona giornata. Ciao, grazie. Il mio vicino fa il compost con l'umido, mi riempie di mosche tutta l'estate. I miei ex vicini mi hanno tagliato la corda per stendere, sostenendo che ero arrogante. No, questa c'è qualcosa sotto, Francesca, no? Perché sei arrogante perché stendi la corda, o forse perché la corda è simbolo di arroganza. Fate come me, quando la vecchia al piano di sopra la notte fa rumore, io scendo e le stacco la corrente, e così fino a mattina, quando esco e la riaccendo. Ma tu, cioè, tu sei un delinquente, metti che la signora ha bisogno della luce, metti che deve andare in bagno, quando si romperà un femore per colpa tua, noi sapremo chi denunciare. 800240024, andiamo da Giuseppe, provincia di Ragusa. Ciao Giuseppe. Buonasera. Ciao, buonasera, come stai? Bene, niente, volevo raccontare di questo episodio simpatico. Che... Giuseppe, però stai su, perché mi sembri un po' abbacchiato. No, tutto a posto. Tutto a posto? Sì. Benissimo. Raccontami della vecchietta. No, era un signore anziano che purtroppo di mese in mese la sua situazione psicofisica si era aggravata e quindi poi è arrivato al punto che la sua casa era malandata e quindi mi causava dell'infiltrazione di acqua dal suo bagno. A casa tua? A casa mia. Sì. Al che io gli faccio presente che bisogna riparare, lui mi risponde: no, non è un problema mio, è a casa tua, sono fatti tuoi. Ma il tubo è del tuo bagno. Mi chiude la porta, niente. Quanti anni aveva questo signore, Giuseppe? Un 70 e passa. Comunque, al che cerco da premettere che non era purtroppo da solo, i suoi parenti vivevano. No, immagino. Giuseppe, guarda, visto che non sono il tuo amministratore di condominio, quindi dimmi solo com'è finita poi la storia, perché già mi sta già intristendo per il signore, devo dirti la verità. Sì, niente, è finita che purtroppo per accedere io ho chiamato la polizia è venuta e ha detto sì, però noi fisicamente non possiamo buttare la porta a terra. Lo voglio sperare per un'infiltrazione. Deve aprire lui e faccio accedere. Ho detto sì, allora ditelo voi, perché secondo me all'interno ci sono pure condizioni igieniche poco. Come, ecco. Non sono neanche forum, Giuseppe, ti prego, arriva al dunque così. Arriva al dunque, loro si sono, cioè, anche se non ci toccherebbe farlo, hanno bussato, lui gli ha aperto, è entrato il primo, poi l'hanno convinto e alla fine l'abbiamo aggiustato, è andato un muratore, hanno visto che è danno. Tutto si è concluso bene. Giuseppe, tu sei di Ragusa Ibla o sei della parte nuova della città? Ragusa Ibla. Sì. Ragusa Ibla, quindi vivi in uno dei posti più belli d'Italia? Beh, sì, dai. Dai Giuseppe, stai su di morale, vivi in un posto magnifico, hai risolto il problema delle infiltrazioni, più di così, e soprattutto il tuo vicino non ti metterà mai, mai e poi mai di notte una musica così. Ciao Giuseppe, grazie anche a te Roberto. Chiudiamo con... aspetta, è arrivato un messaggio. Abito in una villetta bifamiliare con un bel giardino. E io credo che le villette bifamiliari siano la causa di gran parte degli omicidi che succedono in questo paese. Il mio vicino vuole che lo aiuti nell'operazione di giardinaggio. Peccato che io sia allergico. Ciao Luca. Bene, quindi Luca sarà il prossimo che ucciderà il suo vicino. Abbiamo tempo per un'altra? Sì. Andiamo... Antonio da Salerno. Pronto Antonio? Ciao Matteo. Molto sud oggi. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Te? Beh, diciamo che me la cavo. Senti, tu in Germania hai avuto problemi con i vicini però, non a Salerno. Sì, perché? Perché era e c'avevo i miei vicini che lasciavano pascolare le loro scarpe sul vassoio, ogni sera per rincasare era un casino. Il giorno prima di andarmene ho preso un sacchetto, le ho messe tutte dentro e le ho messe vicino al bidone della spazzatura. Cioè, gli hai buttato via le scarpe? Sì. Quindi sei tu il vicino molesto. Per cortesia, per tre volte... di tenersele in casa ed evitare di farmi scavalcare questo mare di scarpe. Che cosa facevi in Germania, Antonio? Erasmus. Ah, quindi eri studente. Per laurearmi in ingegneria. E adesso cosa fai? Cerco di fare l'ingegnere. Bravo, in bocca al lupo allora. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Sono Ciro dalla provincia di Avellino. I miei vicini tutte le mattine verso le 6 fanno pulizie con le finestre aperte ascoltando Gigi D'Alessio a tutto volume. Questa però dei neomelodici secondo me è un altro luogo comune a cui io sinceramente non credo. C'è invece un messaggio che mi è arrivato oggi che riguarda una persona che non ha un unico vicino, ma visto che viaggia tanto per lavoro, di vicini ne ha diversi, tutti i giorni diversi. Caro Matteo, io giro l'Italia per lavoro e ad ogni pernottamento in bed and breakfast o in hotel cambio vicini. Chi russa, chi geme, chi recita mantra, chi parla da solo, chi si esalta per la partita pinball sul laptop, chi piange, chi litiga con la moglie per telefono e l'amante in camera, chi ride per un film. Indimenticabile fu quel pernottamento in Trentino, con la coppia infoiata, ovviamente contro la testiera del mio letto, che all'urlo di ya, ya, ya, mein Gott, mi ha svegliato dalla fase REM del mio sonno. Quando posso essere vicino a casa, voglio essere a casa, in un ex convento del XIV secolo. Ecco, lì, l'unico rumore che ascolto nelle notti insonni è quello della mia Fender Stratocaster. Benissimo, e passiamo da Jimi Hendrix. Era Jimi Hendrix questo? Da Jimi Hendrix a Mango, perché Daryl scrive: bellissima la canzone, me la fate sentire tutta? Ora, Daryl o Daryl, come ti chiami, ma magari proprio tutta no. Però un pezzettino te lo facciamo sentire. Una volta nel nostro condominio è successo un misfatto. La signora del primo piano ha trovato sul balcone un preservativo. Ha pensato bene di attaccare in ascensore un biglietto con scritto: si prega ai gentili condomini di non lanciare preservativi dalla finestra. Io ringrazio Roberto Scaltritti, soprattutto perché ha tenuto in caldo tutta la puntata questo pezzo. Grazie a Luca Rinaldi, grazie a Tiziano Bonini e grazie a Stefano D'Andrea. Vi ricordo l'indirizzo per mandare il racconto che vi racconta è Io sono qui, @radio24.it, una pagina, non di più, oppure c'è proprio un sito, è un luogo fisico, ed è il Salone del Libro di Torino, giovedì 12 maggio alle 16. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?